Volerà Beberec nel sike zirmenga et amieve del kun hatate nyam neber genada nyekelai fukun sette in sena lijunle Fabis never kun liavta in simeta gener su ne gregni ne sandem meta keziamma ne sanna kebruna kedaji lijule I'm lucky.